La storia del profeta Samuele viene narrata nel libro omonimo ed è utile ricordare che la situazione storica ivi descritta segue quella descritta nel libro precedente, quello dei Giudici, dove troviamo scritto che ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Giudici 21.25. Infatti il popolo di Israele, dopo aver vissuto uno straordinario periodo di liberazioni e di vittorie, come il passaggio del Mar Rosso e le vincite contro popoli più potenti e numerosi di loro, non fu riconoscente verso il loro Dio, il Dio dell'Amen o Dio di verità, Isaia 65.169, e si comportò come nemico, Levi 26.21, nei confronti del loro Salvatore e Signore. Una situazione non certamente diversa da oggi per tanti figli di Dio, i quali, dopo aver realizzato la salvezza della propria anima, dopo aver sperimentato interventi particolari di Dio nella loro vita, dimenticano di essere riconoscenti e, presi dalle sollecitudini di questo mondo e dall'inganno delle ricchezze, MT 13.22, fanno ciò che ritengono bene e giusto ai loro occhi. In questa situazione, nel primo libro di Samuele, è narrata la storia di Elcana, un uomo che aveva due mogli, una delle quali si chiamava Anna. Avere due mogli, per un ebreo, era un fatto normale, perché la poligamia era ammessa nelle leggi ebraiche, dato che consentiva, fra le altre cose, di avere molti figli, soddisfando così uno dei grandi obiettivi del popolo ebraico. L'altra moglie di Elcana, al contrario di Anna, aveva vari figli, per cui siamo legittimamente portati a supporre che questo fosse il motivo di questo ulteriore matrimonio. Proprio per questa infausta situazione, Anna si trova profondamente prostrata nel tempio davanti all'Eterno, chiedendo un figlio e promettendo, avendolo ricevuto, di consacrarlo interamente a Dio per tutti i giorni della sua vita. Poco tempo dopo Anna rimane incinta e partorisce un figlio maschio al quale mette il nome Samuele, nome che significa domandato a Dio, Isa 1.20. Quando giunse il momento per la famiglia di Elcana di andare a compiere il sacrificio annuale, Anna rimase a casa, dicendo che sarebbe andata solo quando avrebbe portato per sempre il bambino a compiere il servizio nel Tempio dell'Eterno Dio. Sarebbe stato un sacerdote per nascita, consacrato a Dio, un nazire. Passarono circa 3 anni, Anna, mantenendo la sua promessa, divezzò il bambino e lo portò dal sacerdote Eli, dicendogli: «Signor mio, ho pregato per avere questo fanciullo e l'Eterno mi ha concesso ciò che gli ho chiesto. Perciò a mia volta lo dono all'Eterno, finché egli vive sarà ceduto all'Eterno». E là si prostrarono davanti all'Eterno. 2.2628. Quanto è difficile mantenere una parola data. Nel giorno della promessa del matrimonio si promette fedeltà fino alla morte, come nel giorno che si decide di seguire Cristo a qualsiasi costo. E poi, con molta superficialità, dimentichiamo tutto. Ecco perché il Dio che si è rivelato sul Monte Sinai ha avvertito: quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti, adempi il voto che hai fatto. È meglio non fare voti che farli e poi non adempierli. Eccetera 4.45. È facile pensare cosa prova una madre che si stacca dal figlio primogenito così tanto ardentemente desiderato, sapendo di poterlo vedere solo una volta all'anno. 2.19. Ma è altresì facile capire, meno per chi lo ha realizzato, quanto sia anche appagante offrire la cosa più cara a colui che ha in mano la nostra vita, il bene e il male, colui al quale tutto appartiene. Non si fa che restituire ciò che si è avuto in dono. 1 Cronache 1.16. In seguito leggiamo: Elcana e sua moglie ritornarono a casa sua a Ramà, e il fanciullo rimase a servire l'Eterno alla presenza del sacerdote Eli. 2.11. Così è di chi conosce l'Evangelo e realizza la nuova nascita mediante l'opera di qualche evangelista o pastore d'anime. È normale che si inserisca nella comunità nella quale ha trovato la fede. Spesso mi viene chiesto quale gruppo religioso deve frequentare chi crede all'Evangelo. La risposta più ovvia è che debba seguire il gruppo nel quale trova la vita nuova in Cristo. Non solo. È anche normale che il neofita debba seguire inizialmente le direttive spirituali di chi lo porta alla fede e, solo in seguito, dopo esperienze e riflessioni, sarà in grado scegliere a che gruppo appartenere. Nessun bambino può scegliere i suoi genitori, ma è obbligato a fare scelte giuste quando è adulto, se i genitori non hanno un cammino retto. Come Samuele, ancora fanciullo, serviva l'Eterno sotto gli sguardi del sacerdote. Eli, così è d'obbligo, per chi è ancora fanciullo nella fede, seguire chi ha più anni di vita cristiana. Questo è il cammino normale di chi diventa figlio di Dio, sia per un adulto, sia per un giovane. Però, come disse qualcuno, non dobbiamo rimanere prigionieri di chi ci porta alla libertà. Si deve avere riconoscenza per chi ci conduce a Cristo, ma questa non deve essere superiore alla fedeltà a Dio. Purtroppo, il sacerdote Eli aveva due figli sciagurati, che non facevano la volontà di Dio. Essi non erano stati a suo tempo ripresi dal padre come si doveva. Così l'Eterno Dio decise di colpire duramente tutta la famiglia. In questa situazione alquanto triste, leggiamo nella parola di Dio la seguente testimonianza in merito a Samuele. Ma Samuele prestava servizio davanti all'Eterno, anche se ancora fanciullo, ed era cinto di un efod di lino. 2.18. Quel ma è molto significativo. Tutto andava male, il sacerdote e i suoi figli non camminavano rettamente, eppure Samuele serviva l'Eterno. Quanto cin, è bisogno al giorno d'oggi che uomini e donne non siano condizionati dai peccati altrui, ma seguano l'Eterno, fin dalla loro giovinezza spirituale. Quanto cin, è bisogno di ricordare che il credente deve servire Cristo il Signore, col 3.24, e non gli uomini. Samuele è un buon esempio per un cristiano. Intanto il racconto ci illustra che Anna ebbe altri tre figli e due figlie. Aggiungendo un'altra nota in merito a Samuele. Intanto il fanciullo Samuele cresceva presso l'Eterno. 2.21. Se siamo in grado di cogliere le parole, il testo dice che Samuele diventava adulto come Dio voleva. Anche questo aspetto deve dirci qualcosa. Diventare adulti è una normale prerogativa di ogni essere umano sano, ma non tutti diventano adulti secondo il volere di Dio. Anche un bambino ladro diventa adulto. Anche un giovane assassino diventa adulto. Ma possiamo dire che siano diventati adulti come Dio vuole? Anche un credente giovane diventa adulto? Ma quanti adulti credenti ancora sono dei bambini? Scriveva una professoressa dirigente di un istituto di neuropsichiatria. Vediamo quasi ogni giorno studenti universitari di 25 anni in cui non è ancora compiuto il processo maturativo di costruirsi dentro qualcosa. Cioè il pensiero razionale è in anticipo e la parte emotiva in ritardo. Il pericolo dei giovani è proprio nella loro capacità di inibirsi, cioè rinviare i loro istinti, negare i loro impulsi, accantonare i loro sentimenti. Ecco il dramma. Rimanere bambini sia a livello psicologico sia spirituale, ma Samuele cresceva. Cresciamo dunque fisicamente, ma anche nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. 2 Pietro 3.18. Questa è la chiamata del credente, e solo così sarà possibile dire di lui ciò che è scritto di Samuele. Intanto il fanciullo Samuele cresceva in statura e nel favore dell'Eterno e degli uomini. 2.26. Notiamo. Non solo davanti a Dio era gradito, ma anche davanti agli uomini. Troppi credenti curano solo una relazione con Dio. Ma l'episodio forse più eclatante nella vita del giovane Samuele è che ode direttamente la voce di Dio, chiamarlo, mentre era coricato nel tabernacolo dell'Eterno, dove si trovava l'arca dell'alleanza. Samuele pensava che a chiamarlo fosse il sacerdote Eli e per tre volte va da lui, ma dopo, secondo il consiglio del vecchio sacerdote, risponde: «Parla, poiché il tuo servo ti ascolta». 3.10. Sembra una risposta scontata, ma la risposta di Samuele era molto di più di quanto a noi sembra. Infatti, Samuele risponde all'Eterno Dio di comunicargli quello che voleva, perché lui avrebbe fatto ciò che gli veniva ordinato. Per Samuele non era difficile obbedire all'Eterno, perché da anni era abituato a ubbidire ciecamente ad Eli, un uomo certamente non perfetto. Tuttavia, chi ubbidisce o è fedele nelle piccole cose, lo è anche nelle grandi LC 16.10. Purtroppo questa verità si è persa nel tempo e da tempo. Molti giovani credenti vorrebbero fare grandi cose per Dio anche quando, nel contempo, fanno ben poco per la Chiesa alla quale appartengono, oppure dichiarano e pregano di essere disposti a obbedire a Cristo in tutto mentre si ribellano nelle piccole cose della vita. Se è vero che non si può amare Dio se non si ama il prossimo, 1 GV 4.20, è altresì vero che non è possibile servire e ubbidire a Dio nel modo giusto, quando questa non è una realtà quotidiana nei confronti delle autorità spirituali o quelle umane, come i genitori. Come sta scritto, anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta. Proverbi 20 e 11. Nessuno si inganni. I frutti primatici, cioè le prime opere o il primo comportamento, il tirocinio della vita cristiana, rivelano ciò che si farà in seguito. Michea 7.1. Il segreto di Samuele nel diventare quello che poi sarebbe diventato lo possiamo leggere nelle seguenti parole. Samuele intanto cresceva e l'Eterno era con lui e non lasciò cadere a terra nessuna delle sue parole. 3.19. Il segreto di non lasciare cadere a terra la parola di Dio o di serbare nel cuore le parole di Gesù come Maria, Luca 2.51, o accogliere la parola come i santi che siedono ai piedi dell'Eterno, Deut 33.3, oppure ritenere la parola udita in un cuore onesto e buono per portare frutto, Luca 8.15, non è poi un segreto, ma solo una rarità che fa la differenza. Infatti leggiamo che tutto il popolo riconobbe che Samuele era stato stabilito come profeta da Dio, 3.20. Un vero cristiano non impone il suo carisma, non pretende di essere riconosciuto per quello che è, ma le sue opere e il suo cammino saranno il suo biglietto da visita. Se Samuele divenne un uomo di Dio, è perché era addestrato alla mansuetudine, senza la quale nessuno può essere un vero e buon cristiano. Che Dio non permetta che viviamo di illusioni, perché non vi è niente di più serio della vita cristiana. Dio non si può beffare, Galati 6.7. Luglio 2009. Ellero,